4, 2, beh, se mi stavo ascoltando il Cortex per stavare qualche anno, perché mi va e 70 sbaglio, non la metto. Vabbè, comunque stavo ascoltando il Cortex. Sì, ma io non ne posso ascoltare, non ti ho più nulla con quella roba. Sì, vabbè, ma non mi piace però, non dico niente praticamente, sono sigle e basta. Non è che mi piace. Ehi, qualcuno anche della Sardegna, però questo è in particolare. Che cazzo. Sì, a me piaceva ascoltato tutto. Capito? Avanza. E cosa pongo da tu? Non puoi mettere antenne, ma non puoi mettere in cosa. Ehi, vabbè, perché io antenne? Anzi, forse che vai due perché della mia. E immagino di polo, poi da... in verticale autocostruito per cubico da io non le ho antenne, pure sento bene, anche avevo sentito anche la Spagna l'altro giorno, ci ho parlato addirittura su canale 14 con Tenerife, anche adesso ho sentito facendo conto dalla Barcellona, arrivano a te, sì, Campagna già ce ne avevo le antenne, potevo ascoltare e fare il gioco. Eh vabbè, erano altri momenti, altri tempi, per cui adesso bisogna concentrarsi, ma non ne vale la pena tanto, non mi dicevo, mi sono dato il partito, non ti devi pentire di niente. Sì, infatti, stasera hanno entrato a 90. Sempre ascoltando il QRM stavo, ma dimmi tu, secondo come va, metto il costruito, stavo, non c'è più nessuno, cosa... Infatti non vale la pena, ma guarda, oggi se tu vuoi occupare un PL, sono soldi buttati nella moneta, ma che non ne vale la pena, non c'è nessuno, ma così come occupare un PL, che costa 2,50 euro. Ah, vero, non c'è una bagnetta, cercare che sta abbagliando. Ehi, vabbè, hanno suonato il campanello allora? No, negativo. Ehi, vabbè, vuol dire che stai niente. Ha sentito qualche rumore strano? Grazie, grazie. Ha un udito straordinario, sente tutto. La mia moglie la sente com'è tra nel piccolo e abbaglia in un modo diverso. Io so che è mia moglie, fermati, prima di suonare il campanello. Sì, ma è così, gli animali sono così. È un duro. Qual è? Cara la caccia quello che hai detto? No, un meticcio è. Ma sta sempre col muso per terra lavorando. Ora si che abbia qualcosa del meticcio, del muso, forse. È possibile sì. Cioè, ne aveva uno una volta, cara la caccia per fratello. La via Durra, dove aveva la falegnameria Durra. Per terra è strisciato un pezzo di pelle di coso, di coniglio, secca, strasecca di chissà di quanto tempo. E ogni 2 metri faceva la strisciata per terra, ma la strisciatina così con la mano, no, di 20 centimetri. Ha detto vai cercala, Lola, vai cercala, vai, anzi vai trova la Lola. E questa cosa l'ha nascosta da me a 150 metri, 200 metri di distanza eravamo. L'ha nascosta dietro un mucchio di legname che avevo, beh lo sai che il cane è arrivato lì e della torre. Ehi, infatti mi devo imparare, perché sentiva l'odore, capito lui. E dall'odore è arrivato al negozio tuo. Certo, è tipo di qualità, di olfatto che hanno questi animali. Forse all'unito anche l'olfatto è straordinario, è l'unito. Così. Beh, nella trovatura. Già lo so. Prima di suonare il campanello, abbaia anche in un modo diverso. Io so che è mia moglie, con sicurezza, appena entra nel rubicolo, io lo so, si la brula con il robot, si la brula Iana e il robot subarà, non si ritira su pari a nemmeno dalla padrona. Non credo. Beh, è così. Ma è ti senti bene, ho troppo basso, perché sono basso basso la radio. Ah, ti sento bene. Ok, sono basso basso. C'è qualcuno di MR anche, c'è un marchiglio forte, marchiglio sole, la veloce. E va bene, dai. Anna beh, Anna. Questo qui è... sta sempre col muso in terra quando io lo porto, no? Sempre rotolando, si prende la traccia, ti vedi? E' un via, che si sta, tu pensa quando c'è un cane femmina che è in calore, no? Che si sta, quando passa un cane per strada, si ferma davanti alla porta o di quella, o portone di quella casa perché sente l'odore, è una cosa impressionante. E l'altra volta invece di passare nel solito posto io, sono passato alla parte opposta. Beh, ci sono degli scalini, è salito in quegli scalini perché sa che c'è Diana l'amica sua. Ma tu immaginare che lo porta mia moglie, mi ha tirato per salire sopra gli scalini. Già lo credo, sì, ma è così, già lo so. Gli animali non hanno la parola, però hanno altre qualità, per cui non c'è da meravigliarsi, lo sappiamo benissimo. E poi specialmente il cane, questo è vero, l'amico dell'uomo, se il cane è educato bene, è veramente l'amico dell'uomo, o meglio del padrone. Dice che c'è davvero, no? In casa non fa mai niente, io lo porto e lui fa fuori. Ho le buste attaccate al guinzaglio, io le raccolgo quando c'è da raccogliere. Certo, io non credo che è così. Ma è così, io lo so. Ebbene, meglio così, dai. Vediamo se c'è qualcuno all'ascolto. Ebbene, molti ce ne sono all'ascolto. Ma tu molti, lei, no? E mi viene molti. Non c'è nessuno, tu c'è al cimitero adesso, da tanto. Sì, a tanto Paolo. Gloria, la bella villa ha fatto una frequenza, per carità. Che vergogna. Dopo tanti anni, ridursi così. Comunque c'è anche un po' di propagazione, poco fa ero 27.555, e c'era un po' di propagazione, c'è il canale praticamente monitor della propagazione dell'Italia in quella. 27.555, mi sembra che risulta canale, non mi ricordo se 52 o una cosa del genere. Boh, io non ci posso andare, su questo qui non ci posso andare. Dici che devi venire a controllarmi, però non ho servito nessuno. Ma sei veramente convinto che venga qui a controllare? Ma vai! Ma lo vedi che quello prima di muoversi, dimmi la barcella è vita mia, l'hai compreso? Mi devi dare 250 euro, pare 500 mila lire del vecchio cuneo, per cui hai da ragione. Io dico, cosa? No, non mi vedi più, no. 100 euro so, no, non è 250 euro, non sei vento, ma mi dico che è. Ma una volta erano 500 mila lire, praticamente pari a 250 euro, grosso modo, dai. Di oggi, poi se hanno aumentato, non lo so, tanto meglio. Ecco, a meglio a così da salire. Il nostro 600 saranno i 500 euro. Ti metto qua da pagare pure per ritirare la patente nuova, che me l'ho rinnovata. Allora sai, mi è toccato pagare 7 euro per ritirarla, perché arriva per assicurata ed è a carico di chi la deve ritirare. Sì, lo so, 6,80 euro mi pare, 6,90 euro, una cosa del genere. Sì, perché te la mandano tramite posta, te la mandano. Per cui, già lo so, sì, il postino vuol pagare, sì, ma è così, è vero. Oltre al fatto che poi magari hai speso, io avevo speso 70 euro per il rinnovo. Io ero andato lì a quel medico o militare che c'è lì, a grattacielo, ma è già passato un anno, proprio un anno adesso, capito? E avevo fatto pagare 70 euro per la visita, l'ho fatto pagare. Poi ho pagato 6,80 euro, mi pare, al postino, no, ma 7 euro al postino, dopo 6 giorni a vita. Io ho pagato 87 euro e mi hanno fatto tutto l'oro. Mi hanno fatto. Poi quando è arrivata la postina ho pagato le 7 euro per ritirarla. Mi hanno lasciato anche quella vecchia. Sì, sì, sì, io quello sì. No, ma io ero andato lì in via Pascoli, no, alla... insomma vicino alla Coppa, che dice perché la scuola guida, e li volevano 100 euro, avrebbero fatto tutto loro. Poi invece, siccome un amico che è tutto coso, o è tuttore di teoria, ho chiesto, non è che si paga di meno per tutte le cose, e tu mi fai, se vieni da noi dice paghi 80 euro, se vai invece lì da quel medico o che c'è lì militare paghi 70 euro, e così è stato, sto andando 70 euro, sono andato e ho rinnovato la patente. E aggiungi famiglia, 100, e aggiungi famiglia, 30 euro da 200 che mi aveva chiesto quello di via Pascoli. Perché non c'è stato a farlo qui via Pascoli, cioè è vicino dove vado io sempre, bottega, per cui. E invece no, non mi sono andato e sono mi ha consegnato, ho risparmiato 30 euro. Io sono andato in via Bozzino, però anche quello è il medico della polizia e della questura di Nuoro, quello che viene qua in via Bozzino. Sono medici militari, se no non te lo possono fare la visita. Beh, questo non lo so, questo non lo so. E invece mia moglie mi ha rinnovato qui di fronte a casa, qui io di fronte a casa, dove sto io, c'è una sulla guida, no? Certo. E mia moglie mi ha detto, ah, ma che me lo fa fare, anche se pago di più, lo faccio io, e ha pagato 80 euro, e hanno fatto tutto loro, hanno fatto. Proprio di fronte, tutto di fronte a casa, postati di, se no, 10 metri, tu immaginati uno di fronte all'altro, loro 10 metri più avanti c'è la sulla guida, e dunque gli viene il medico e ti fa la visita, eccetera. 80 euro. La mia non era neanche scaduta, mi scade a maggio, data quella vecchia. Fino a 65 anni posso ottenere tutte me le ha lasciate. A 65 anni deve essere, me la portano alla C, perché più della C non puoi avere. A 65. Lo so, a 65 anni ci sto con la patente professionale, ce la tolgo, precisando solo la mia. Beh, cosa di una puttana, tu vuoi che devi guidare due, oltre 65 anni. Adesso te l'hanno rinnovato per 5 anni, e a me invece te l'hanno rinnovato per 3 anni, metto un poco, perché io ho superato 70 anni. Ho 75, sì, penso che c'è per 70 anni, a 3 anni, da poi 80 anni di a 2 anni e così via. Sì, io so. Vabbè, andava così. E perché abbiamo cominciato con i 10 anni, prima del anni, da poi 5 anni, da poi 50 anni, e precisamente a 70 anni sempre 5 anni, 5 anni, 5 anni. Aveva 3 anni solamente, ma chi te, se vuoi due ti sei limitato meglio, lo hai compreso. E sì, sì, cosa vuoi dire? Io ho cominciato prima a 5 anni, perché la patente professionale dura 5 anni, quindi quando mi hanno tolto la B me l'hanno fatta per 5 anni, eh? Sempre 5 anni, 5 anni ho rinnovato. A chi è andato via dura B, ho dovuto farla per 5. Sì, lo so, ma la patente professionale infatti iniziamo con 5 anni solamente. Poi con il passare degli anni mi sembra che addirittura anche quella, addirittura 2 anni, poi adesso non lo so di preciso, ma dopo i 65 anni mi pare che dati 2 anni e basta, per la patente sì, adesso non vorrei sbagliare, ma so che è così. Sì, penso anch'io che sia così, mi lasceranno la C, sì, non me ne posso nulla, mi posso dare la B e tu. E tira a campare, già non sto guidando adesso, che non me ne faccio niente della C, però fino a 65 la C la puoi avere, ma non è. Sì, quello sì, fino a 65 la C c'è. Poi io sempre quello, io ho anche la patente della moto, sempre questo. Sì. La patente mia, io faccio la patente 52 anni della macchina. Più della moto o ce l'ho altre 3 anni, 4 anni se sbaglio, boh, una cosa del genere, insomma in tutto va giù, tutti e 4-5 anni la patente, tra moto e macchina, solo di macchina 52 anni. Io ce l'ho dal 76 e ce l'ho la patente della moto dal 76. No, la patente della moto ce l'ho prima, del 66, io la patente della macchina l'ho presa, febbraio del 66, ti puoi immaginare, fare un conto, sono già passati 52 anni e un mese buio, per dire. Però la patente della moto ce l'avevo già da prima, ce l'avevo, ma ce l'avevo almeno 3 anni, 4 anni, una cosa del genere, dai. Insomma, in tutto io sono patentato già da 50, 55 anni minimo. Figurati. E io ce l'ho lo stesso da quando avevo 18 anni, però sono più piccolo di te, capite? Quindi ce l'ho da 66 mi sembra la patente. Sì, beh certo, è che ti devi su un bel danno, ti devi su al tempo, io ne compio tra a mese entrante, a fine mese, a 29, là, ne compio 76, perciò ti puoi immaginare. Però ancora grazie a Dio è troppo in forma, dai. Il Dio di Mantegna giù, cosa vuoi si dica? Non c'è bisogno di andare a pigliare a pegare via. schifo. Tanto io mi sento i colpi qua. Se non vedo nessuno e sento i colpi del 23, vado sul 23 e parlo sul 23. Ah, anch'io? Anch'io ci sono problemi. Sul 23, sul PMR, non vedo problemi, no. Non me ne pongo di questi problemi. Siccome non devo niente a nessuno, per cui io mi sono sempre comportato in maniera perfetta, non ho mai offeso nessuno e mi sono sempre saputo rapportare con le persone. Beh, a me me la manchina, a me un attimo, un aggettivo me la manchina, mi dirai. Ma succede, ho andata lì. Sì, a me adesso la faccia di chi non vuole ho cambiato anche la batteria al PMR, che l'avevo messa a caricare, adesso metto l'altra a caricare. Infatti, no, io già l'avevo già caricata. Io ho tutte e due cariche, una, anzi non l'ha già ancora, manco che più importante è quella di questa, perché carica proprio al massimo, quella da 1008, poi ho quella da 3008, quella altrettanto carica al massimo, per cui in caso di bisogno, di necessità, sono pronte tutte e due. Se io ne ho due, ho quella riportata da 3.800 mAh e quella da 1.800 che è quella originale. In quella grande avevo messo a caricare, adesso sto mettendo la piccola, ce l'ho anche io quella lì. Si dura di sagando, non finì mai stava qui. È vero, dura tre volte tanto, tre volte l'originale dura, già lo credo. 2.800 mAh, che si sa. Fate il conto, 1.800 sono 2.600, più 1.200 sono 3.800, perché si può immaginare quasi il triplo della originale, quella riportata, diciamo, chiamiamola così, dai. Infatti, a voglia. Allora, ci può essere un'altra, così me la tengo in carica ed è pronta. Se non basta lì, mi porto l'attacco ad un bordo, all'alimentatore, e così la marcuisa dura sempre, specialmente quando l'aereo non stacca la luce. E se no buchiamo una batteria di macchina e non finì mai. E io lo potessi, di poco capita, tu mai senti, ad esempio, la macchina mia ha una batteria del 65%. Va, fate il conto. Quante ore, quanti giorni durerebbe in un apparecchietto del genere, che consuma pochissimo, si può immaginare. Io dico che dura 6 mesi. E poi devi ridurre la corrente perché non è a 12 volt questo qui, è di meno. Lo so, infatti è 7,8 mi sembra, una cosa del genere. Sì, quello sì. Sì, è vero. E vabbè, ma appunto in un alimentatore se mi pongo una resistenza e abbasso la tensione, non è. Faccio l'operazione, il conto matematico e attacco la resistenza dell'attacco ed ecco che mi abbassa la tensione. Dura. E poi ne ho un altro che l'avevo dato a mia moglie, è uguale, ne ho due di qui. Già sono usci, dai. Sono giocattolini, ma sono molto, molto comodi. Guarda, domenica mi sembra, ho sabato domenica, deve essere che c'era qualche gara ciclistica. E stavano parlando proprio in PMR e li sentivo. Infatti stavo dicendo, un ciclista era caduto, eccetera, eccetera. E se l'ha fatto male, ma sì. Sì, li stanno usando in tante cose, li stanno usando questi apparecchi. Sì, infatti, li usano anche tanti cantieri che l'hanno per lavoro, eccetera. No, sono utili, sono la comunità. Anche i camperisti, quelli che tante volte hanno il PMR sul camper per parlare tra di loro, tanto andare sempre fino a Indiana, chissà ieri, quando vanno in ferie, si mettono d'accordo tra amici e fanno la colonna, fanno dei camper e si parlano così col PMR anche, oltre che col barattino. Avanti Greco. Buonasera, ciao Giulio, ciao Natalino, come mi ascoltate? Buonasera. Avanti Natalino. Scappa ben sentito, buonasera. Avanti tu. Ok, ciao, ciao Fra. Ben ascoltato. Stavamo appunto dicendo qualche cosina così a riguardo del PMR. Andava, che l'altro giorno ho sentito una gara ciclistica, c'era, in atto. Adesso non mi ricordo se è sabato o se è domenica, comunque questa settimana, dai, diciamo. E un ciclista che era caduto e se l'ha fatto male. Prima non li sentivo, poi che me l'aveva accennato Gio Maria, che c'era questa trasmissione, PMR. E dopo un po' invece lo sentivo anch'io, si vede che si erano spostati e andavo a veloci. Avanti Franco, la buonasera. Io sono un PMR, non sto pensando perché è come gli altri, quando arrivi, se gli altri sente, tu lo senti, ma lui ti sente molto migliore, fai molto migliore. Per cui parlano troppo di antenne, di rettive, cose qua e non mi penso. Sì, beh certo, no, ma io uso sempre il gommino, problemi non me ne metto, basta usare il gommino e l'antenna e la capacità, non è quello il discorso. Ho la fortuna di abitare in una zona dove riesco a sentire tutti quanti, PMR, per cui non ne ho bisogno di mettere l'antenna. L'antenna ce l'ho, ma è attaccata al ricevitore, che poi anche quello non lo sto più accendendo. Mi pare che sto così mesi per dire, no, è sempre fisso lì, l'antenna sul ricevitore, ma su questo no, sul PMR basta l'antennino suo originale, tranquillo e facile. E andiamo, vai Natalino. Sì, caffa. Infatti, io però col gommino non sento nessuno, è un macello. Già ho difficoltà così a sentire, no? Quindi infatti manca a me piace entrare a fatica, chi la intendi, che non intendi, oppure io rintendo e di non intendere a me, compreso. Lo so, ciao Gianni. Lo so, purtroppo con la frequenza è così, la 27 ci sono un'altra musica, certo. Allora, all'occorrenza diciamo che ci possiamo divertire anche un pochino con quello. Sei entrato Gianni? No, io deve essere successo qualcosa, perché non ho continuato a parlare in Giulio. Avanti Gianni, non sono in tuo tu. No, l'ho chiamato e non riprende. Giulio? Sì, mi era mancata la corrente per un attimo. Ma Gianni è stato, Gianni è il più lungo. No, l'hai nominato tu a Gianni, non io. Io credevo che era entrato, invece evidentemente sta lavorando e non può entrare, capito? La sera fa fino alle 9. Ah, ok. No, perché ho sentito un break. Chi era il break? Avanti. Ok. Io il suo rapporto, ma non lo considerare perfetto, perché io sto uscendo con un di polo, Santiago 7 e la radio è 5, è buona, la radio è molto buona. Il segnale non è scarso, ma non è nemmeno abbastanza forte. Sono sulla 131 all'altezza di San Giovanni più o meno. Tu non so dove sei, evidentemente non sei molto vicino a me. Avanti, riprendi, c'è anche Franco come noi e c'è anche Natalino, io sono Giulio. Avanti, riprendi. Ok, faccio girare io allora. Sì, ciao Alfredo, salutoni, ben ascoltato, è un piacere ascoltare dove CB, perché siamo i 27, probabilmente tu sei il radioamatore, maestro Sant'Orso, ma noi siamo vicini allora, siamo molto vicini, io sono, in realtà sono a distanza, con esattezza, infatti è quello che ho voluto chiarire meglio. Avanti Franco, per l'amico di Sant'Orso, la vai. Ma Giulio, io amico di Sant'Orso ma non ho ascolto per niente, Leo, sto per MSE e non riesco a farlo su, non so se lui sta modulando un antenna oppure è fatto di coro o qualcosa o di basso, ma niente, per me niente. Chiediamo subito, vediamo un po', probabilmente anche lui sta usando un'antenna non molto performante, evidentemente. Attento Alfredo, guarda, c'è Franco da Sorso che non si sente, ha un po' di QRM, per cui stava stava dicendo, stava chiedendo, evidentemente ha un'antenna un poco performante, un antennino. Mi sembra che l'hai annunciato, se ricordo bene. Scusa, me riprendi, Alfredo? Oh, figurati, rispettare il senso, ma credo. Sì, evidentemente, mi dispiace che non riesci a sentire Franco, possiamo fare la ponte. Ora, ha detto che lui ci sente, per cui anche lui non è che ha un'antenna, come stavo dicendo, in focarsi molto performante, però diciamo che ci sente, mentre tu lo senti al tutto, vabbè. Adesso ti mando avanti Alfredo, ti mando avanti Natalino da Sassa di Vecchio, dai, torna a Sassa di Vecchio, avanti Natalino per Alfredo. E io Alfredo lo sento, non so se lui sente a me perché ho pochissimi watt a disposizione. Avanti Alfredo, se mi ascolti. Zona mercato, io sono vicino al mercato, capito? Allora, noi siamo sempre qua sul canale 10. Non c'è altro nessuno che io sappia, se non è che vogliono entrare, non lo so. Avanti, Giulia. Ci siamo rimasti pochissimi anni, anzi alcuni giorni non ci siamo proprio. Mentre sul canale 23 magari c'è un altro gruppetto, ma alle volte ci uniamo anche con quelli del canale 23 e per cui possiamo fare quattro chiacchiere anche con loro, non c'è problema, siamo tutti amici, per cui va bene così. Sì, purtroppo la 27 ormai diciamo che in un certo senso è quasi scomparsa, perlomeno piazzata, poi non lo so, ma suppongo di sì. Ci divertiamo un pochino di più in estate quando c'è la propagazione, che allora riusciamo anche a fare qualche collegamento e mettiamo fuori i vecchi vintage, apparecchi vintage di una volta. Sì, evidentemente tu sei un vecchissimo CB, perlomeno, vabbè, oggi sarai radioamatore, suppongo. Io guarda, ci sono dal 1972 in frequenza. Natalino grosso modo lo stesso, Franco tantissimi anni anche lui. Il mio nominativo di Baracchino era Giulio Dribbling prima, poi sono passato a Giulio Dollaro, per cui non so se ti ricordi questo nominativo, se tu ce l'avevi un nominativo se me lo vuoi dire, e poi magari se non hai se voglia di rimanere ti salutiamo e va bene lo stesso. Avanti Alfredo. No, assolutamente, figurati, non la stai facendo lunga, siamo dialogando, va bene così, non c'è stato problema. Già siamo tutte persone adulte, abbiamo pazienza, sappiamo come ci si deve comportare in frequenza, non ci sono problemi. Sì, Flyber, a voi, un vecchissimo CB, certo, forse che DJ anche della radio, eccetera. Poi Monforte, il famosissimo presidente dell'Automobile Club di Santa. Sì, tutta gente che abbiamo conosciuto, che abbiamo parlato, abbiamo fatto anche le ore piccole, fino alle 3, alle 4 del mattino allora. Per cui oggi no, oggi diciamo a questa ora, dopo arrivati all'ora di cena, spariscono tutti e non si sente più nessuno, altri tempi, ripeto, negli anni passati era veramente bello, ci divertivamo tanto. Oggi invece siamo pochi, pazienza, vuol dire è un'epoca che è finita, quella della radio CB. Se ne passo Franco, scusa Fra, abbiamo fatto un monologo io e Alfredo e così, vai Franco per Alfredo. Va bene, che si può fare? Solo che mi piace di non ascoltarlo Alfredo. No, tanto la io comunque salto da lì per andare da Bricome e vedo delle antenne di un radioamatore lì, mi sembra che in palazzo che c'è una stanzeria o un ufficio elementare, mi sembra che sia una cosa del genere, forse. Ma forse sia mio Alfredo, quello lì, qui alla limite confermerà se è lui o no. E perché lui faccio spesso lì, proprio a quel posto. Ok, Natalino, ripeto. Sì, scappa, dai, io riprendo per salutarvi, che è subito pronta la cena, mia moglie mi ha avvertito. Vabbè, dai, grazie per le quattro chiacchiere, vi saluto a tutti. Alfa 1, quel rettangolo. Ok, Giulio, ciao Natalino, buon giorno, buon tutto. Ci sentiamo. mi manca ogni tanto, mi manca la corrente elettrica qua. Di nuovo qui ho la corrente elettrica. Cioè, non l'ho accorto, ma quindi viene il tranquillo, vediamo un po'. Sì, vediamo un po', speriamo che non manchi di nuovo. E vabbè, oggi sta facendo le piste la corrente elettrica, evidentemente. Alfredo, non so se mi ha ascoltato, ma forse io continuavo a parlare e si era spesso, perché non guardavo nemmeno lo Twitter. Se hai sentito il quesito che ti ha messo Franco, che è nella zona in cui tu muoio. E Natalino che è andato via, io l'ho già salutato, spero che mi abbia sentito, comunque lo risaluto. Ciao Natalino, alle prossime, a domani. Avanti Alfredo. Ok, Maracca, sì. Sì, lo conosco, e io lo conosco, Antonio, è una persona, come si dice, sì, lo conosco anche di persona, così ci siamo incontrati, non ci sono problemi. Evidentemente lui ha pensato di fare così, prima era Monte Oro, adesso invece si è portato lì, è più tranquillo, almeno per quanto riguarda le interferenze, eccetera, eccetera. Camaraca, dai, Alfredo, mi fa molto piacere averti ascoltato, guarda, mi ha fatto molto piacere averti ascoltato. E poi nel finalino così, intanto si saluto, no? Perché stai chiudendo, non ti voglio trattenere oltre, perché evidentemente stai chiudendo, perché non hai tempo di rimanere ancora alla radio. Se mi vuoi ripetere il nome cioè la sigla radioamatoriale, perché così me la segno, e ne parlo anche con un amico che solitamente anche lui è radioamatore, però parla molto in 27 con lui, che è molto assiduo sulla 27, per cui così ti ricorderai, Claudio, si chiama Claudio, Palviero al Baracchino, poi alla radio professionale, come lo ricordo come si chiama, comunque forse non lo avrei sentito anche tu, dai, questo numerativo, Palviero, Claudio. Così le faccio presente che ho parlato con te, ok? Ti dispiace? Avanti Alfredo, un attimino. Ok, ciao Alfredo, anche a me ha fatto piacere dialogare con te e penso anche che abbia fatto piacere a Franco, anche se lui non ti ha sentito, ma farò da ponte io adesso. Sì, grazie per la piccola chiacchierata, fatti sentire, guarda, è un piacere per me e per gli amici del canale 10 e anche quelli del 23, eventualmente se dovesse capitare su quell'altro canale, però di solito noi facciamo canale 10 come canale monitor. Ok, ciao ancora Alfredo, scusa se ti ho trattenuto oltre la tua volontà, suppongo, perché avevi già annunciato prima che volevi chiudere, e ci sentiremo eventualmente la prossima volta. Ciao ancora Alfredo, salutoni, ti mando Franco così ti saluta anche lui. Vai Franco per Alfredo che sta chiudendo. Ciao Alfredo, non tutto, dai, non tutto con il serato, non tutto per ascoltare le prossime, sperando che almeno ci sentiremo. Giusto qualcosa di nuovo, qualche antenna di nuovo, e verrai e ci sentiremo. Ma siamo vicini, non siamo molto lontani. Ok, dai. Sì, ha chiuso, l'amico Alfredo ha chiuso, appunto, sicuramente ha ascoltato i tuoi saluti anche. Sì, conferma comunque, tu non lo potevi sentire, conferma quello che hai detto tu. Lui si trova in quella posizione dove hai detto tu, dove hai individuato tu, problemi non ce ne sono. È un radioamatore, il suo numerativo è Tango Unifor Alfa, dunque TUA. Stavamo parlando di Antonio, a noi lo chiamavamo Antonio Monteoro, perché prima pensava Monteoro, che sarebbe EBO, un vecchissimo radioamatore tra l'altro, molto bravo anche il fatto di antenne eccetera, l'avrei sentito sensato. Avanti Franco. Sì, grazie per averlo sentito, ho parlato tanto anche con lui, anni indietro. Io lo conosco anche di persona, per cui non ci sono problemi, non c'è una persona. È una persona che mi ha fatto un'ottima impressione. Ok, molto bene, e fa piacere quando si vede le persone a modo o fra, fa piacere dialogarsi e discuterci e anche se è necessario o se capita anche frequentarle, perché no? Va bene così, le prendi fra. Lo vedevo sempre queste antenne lì, però so che è il radioamatore sicuramente, perché quelle antenne che sono lì sopra sono tutte il radioamatore. abituato al passaggio che fai lì, evidentemente fai tutto con la strada. Sì, anch'io avevo individuato quell'antenna lì a Sant'Orsola, ma non sapevo che era di Alfredo. Sì, va benissimo così. Bene, fa piacere ogni tanto sentire delle persone che hanno intanto un'educazione esemplare, prima, e poi sentire anche altre persone che della 27, nonostante che sono passate in altre categorie, non si sono dimenticate. Questo mi fa molto piacere. Avanti, Fra. Sai cosa è giù? Come ho detto, ormai ci sono più, perché adesso più o meno siamo tutta gente grande, non è più, diciamo, più ragazzino una volta, e la mentalità ha cambiato tutto totalmente. Qualcuno entra ogni tanto, però sparisce subito, perché intanto quando non gli dai corda, quelli gli sparisce. Come qualcuno si è presentato, è durato poco, e poi è sparito di nuovo, perché non può modulare una persona con lui, cioè che ce l'ha con me, e che ce l'ha conosciuto. A me prima ero con la testa un po' caldina, adesso si è raffreddata e non ho voglia di stare lì a giocare con la portante. No, beh, certo, no, assolutamente no, ci mancherebbe altro. Che motivo abbiamo di spendere dei soldi per poi che cosa? Fare dei rispetti ad altri, no, assolutamente, ci mancherebbe. No, io devo essere sincero, non forse per qualità, perché avevo ancora una certa età, avevo già famiglia, avevo anche un'attività per conto mio, quando ho fatto frequenza, e insomma, tutte queste cose penso che siano fondamentali anche nella crescita di una persona e pertanto non ero tanto piccolo. Ah, io sono del 42, fatti conto, dal 72 quanti anni avevo? Avevo anni circa 30 anni più o meno, dai, una cosa del genere, perciò ero già abbastanza vaccinato, non ho mai avuto modo di sbizzarrirmi come hanno fatto certi ragazzi che hanno fatto Buriana alla grande per anni, posso confermarlo. No, non è stato mai il mio modo di modulare quello, assolutamente. Infatti non è che, infatti io mi ricordo che quando capitava che compravamo il maratino, allora c'era la tassa di c'erano i russi a tutto andare a tassa di maratino, questo cosa qua, andavamo, avevamo 40 canali, quando facevamo le portate per scappare, non sapevamo come fare, perché tutti i turni c'erano 40 canali, 34 canali, allora andavamo e compravamo quei 120 canali, 200 canali, per scappare, per modulare in altri film in auto, per non metterci appresso. E allora tutti quelli chiusi lo stesso, e allora magari portavano un mail anche le radio, però non ce ne accorgevamo perché magari non le facevamo noi. Vabbè, quello sì. Oh, io quanto a quello ne avevo parlato io, perché ripeto, ero già grande, per cui no. I miei non me ne potevano dare, anche perché ripeto, avevo già famiglia, per cui non era quello, ci mancherebbe altro. Va bene, dai. Va, io devo salutare, dai, sono le 8:10 circa, le 8:09 segnando qua la sveglia sulla 6 giusta, suppongo di sì, e devo scendere giù per la cena. Se coincide, ci sentiamo domani, se non sei ancora se sei ancora di servizio, vabbè, pazienza, devi lavorare, è ovvio, ma se non sei di servizio fatti sentire anche domani e così scambiamo quattro chiacchiere, ok? Ti saluto intanto e ti ringrazio per la chiacchieratina, alle prossime, ciao, alle prossime, piacere sempre, ricordati, parlare con te, ciao, sì. Tutto ricambiato, ho cambiato Giulio. Niente, no, io domani sono a casa, questi giorni sono a casa, sono a sabato, perché sono in malattia, sto tutto male, poi sto riprendendo, e vediamo. che invece che avesse altre radio accese Franco e tramite il suo microfono pensavo che era una modulazione attraverso il suo microfono. Dimmi appena. Va bene, no, non è un problema, vabbè dai, forse ancora 30 minuti, 5 minuti. Ah, ci sei ancora, scusa, che vedo se c'è ancora Franco. Franco, ci sei ancora? Per altri 5 minuti? No, evidentemente è chiuso Franco. Sì, no, racconta, non ci sono problemi, dai, per altri 5 minuti non posso anche 30 minuti. No, perché devo scendere a cenare, però per altri 5 minuti ancora, intanto sta apparecchiando mia moglie, dai. Ok. Riprendi Alfred, non ci sono problemi, racconta. Non ci sono giusto. Ah, tanto vedo mio Alfred, l'hai sentito? Allora Franco c'è ancora, dai. Aspetta che ti racconta qualche storiella di gioventù, dai Alfredo, vai Alfred. Adesso chiediamo, adesso Franco si può andare in FM oppure in banda, perché così magari si sente. Niente fa. Ok, paziente. Sì, Andrea. Ok, vabbè. Era comunque uno scherzo più che altro. E tanta gente di questi scherzi ne ha fatto, ne abbiamo fatto un po' tutti, è per questo. Quello che contava però era che contavano gli scherzi erano quelli buoni, quelli che ci facevano fuori educazione, no? Ma senti, facevano delle cose anche molto gravi, facevano credere delle cose molto, molto gravi e così non andava bene. Stava raccontando, credo, e aveva fatto uno scherzo, aveva fatto praticamente un bidone, lui aveva fatto un rientro con un'imbarcazione e ha fatto credere, e io te lo faccio così sommariamente, perché è comunque la spiegazione, no? Ha fatto credere a tutti i tb che avrebbe dato del pesce lì quando arrivava in porto, perché si può immaginare dopo due giorni tu vedevi che c'era la fila delle macchine tb tutti quanti aspettando, e lui naturalmente per paura lo scoprisse, magari che lo picchiassero, allora non si è fatto riconoscere. Però c'era Radio Antonello di Alghero che parlava molto lo spagnolo, infatti faceva anche lui tantissimi bisogni in spagnolo, ma io lo conoscevo benissimo dalla voce, lo capivo. Che rideva tantissimo insieme alla moglie, perché si può immaginare, ma adesso così, sono spiegato così, 4-4 ore, tutto quello che mi ha raccontato Alfredo, avanti fra. Si facevano queste cose, sì, già visto come qui, ce ne sono stati tanti, gente che parlava in spagnolo, in inglese, parlava tanto per fare bisogno, gente che magari stava studiando e allora riuscivano a parlare non molto, però quello che riuscivano a dire lo dicevano e qualcuno ci credeva. Sì, beh certo, di queste scherze così ce ne sono fatti tanti. Invece una volta io mi ricordo, quella è stata una cosa un po' grave, c'era quella CP di Porto Torres, non mi ricordo come si chiama, Gabriella, forse Gabriella, se ricordo bene il suo nome di battesimo, che una volta si trovava transitando sulla strada per Castelsanto, no? E c'era stato un incidente stradale, Alfredo si è raccolto, senti questa storia, questa è una cosa brutta. E a un certo punto Gabriella che si sparciava a voce alta, caspita, cercando aiuto di far arrivare un mezzo di soccorso lì. Beh, non l'hanno creduta, proprio per effetto degli scherzi che si facevano in frequenza, non l'hanno creduta e purtroppo la persona che ha avuto l'incidente purtroppo poi ha saputo che era morta, perché era una persona che aveva bisogno di cure immediate e naturalmente non andandoci nessuno a soccorrerla, Gabriella infatti dice era rammaricata in una maniera impressionante, guarda, e questo è stato grave, proprio per effetto degli scherzi che si facevano, non l'hanno creduta, nessuno l'ha creduta, ok, Alfredo, sì, purtroppo queste cose succedevano, va bene, Alfredo, sì, anch'io devo scendere giù per la cena, perché mi hanno già chiamato due volte, per cui se non ci sono io non si mettono la tavola, i miei. Grazie per la chiacchierata, ti racconterò la seconda storia che mi ha raccontato in una prossima volta. Oh. per portare giusto, però non posso restare perché sono qua, tutti quanti pronti per la cena. Ciao Fra, scusa se ho dilungato così perché purtroppo sono un ascoltato, in pazienza, e ti racconterò la storia come ha raccontato adesso Alfredo. Ciao, salutoni e grazie ancora per la chiacchierata. Ciao Alfredo, grazie anche a te per la chiacchierata, buonanotte, buonasera se non l'hai ancora fatta, e a vedere. Ascolto il finalino e dopodiché chiudo. Vai Franco. Ok, vai. Ciao, buonanotte a tutti e due. Ciao Alfredo, ciao Giulio. Ci sentiamo al suo finire. Buonasera a noi tutti che ascoltiamo. Ciao, ciao. Ok, ciao, ciao di nuovo Fra. Grazie Alfredo, ciao. Ok, rinnovo i saluti, ciao.